perché se non vale spesso ma solo pretesa tu ti fai. Tu perché palese ma vai nelle chiese ti confesserai. Perdono c'ha avuto, non ti cangia molto la capa e questa sai. Sì, vedi caculli pensa in culo, non c'è stato mai. Perché se non vale spesso ma solo pretesa tu ti fai. Tu perché palese ma vai nelle chiese ti confesserai. Perdono c'ha avuto, non ti cangia molto la capa e questa sai. Sì, vedi caculli pensa in culo, non c'è stato mai. Mai alla fede culli maghi non andiro stai. Tra quattro casi ti va via e non canusci guai. Ambeggi lo scarparo sempre senza scarpe vai. Gino oggi crai a lui l'anno lì tocco non fai. Pulito di fuori gli sbirri non ti danno mai la caccia. Ciri alla soffiata e se la vila così studi la miccia. Vecibili tassi a lui e tu li veni una goccia. Geniervi la capo mi ardi e mi brucia come un ristoccia. Perché se non vali è spesso ma solo pretesa tu ti fai. Tu perché palese ma vai nelle chiese ti confesserai. Perdono c'ha avuto non ti cangia molto la capa e questa sai. Sì, vedi caculli pezza in culo non c'è stato mai. Perché se non vali è spesso ma solo pretesa tu ti fai. Tu perché palese ma vai nelle chiese ti confesserai. Perdono c'ha avuto non ti cangia molto la capa e questa sai. Sì, vedi caculli pezza in culo non c'è stato mai. Poi mamma mamma mia vidi c'è sta ria. Vidi in tramari vidi proprio da un sorta di barconi le pagliato un milioni. Parlamo di euro e non di la lira. Se cinca sta moriti fammi come tutti i divilani. E stufezza se cattata sta cosa qua. Io ti vuoi viti angiro con una bicicletta. Onnu californica di neri virgugna. Io non sto a capisco niente Cristo non gli è spartuto. Spezzo acci tutto e acci niente acci te lo pane non vedi. Spezzaci curi alla vitro mesa che fa. Di adulto uno giugna cipili soldi catene sacali sfonati in fanno furno. Signorotto di paese tutto un tu state vistuto. Bueno culli soldi cato spini putiamo andiamo paesi sano. Prea Cristo uno muore che non cimitero siamo tutti uguali. Marcio si tu e marcio so io come quando manati tali e quali. Perché se non vali è spesso ma solo pretesa tu ti fai. Tu perché palese ma vai nelle chiese ti confesserai. Perdono c'ha avuto non ti cangia molto la capa e questa sai. Sì vedi che culli pezza in culo non c'è stato mai. Perché se non vali è spesso ma solo pretesa tu ti fai. Tu perché palese ma vai nelle chiese ti confesserai. Perdono c'ha avuto non ti cangia molto la capa e questa sai. Sì vedi che culli pezza in culo non c'è stato mai. E l'abbondanza fattore determinante che causa la mala creanza. Di vivere e pensare sempre in seno l'arroganza. Ma questa vita è una ruota e prima o poi la tua fortuna finirà. E se non sai più come fare e non ce la fai più a campare, stai tranquillo puoi rubare o magari lavorare. Io sono qui a parlarti di paure che già hai. Rimanere senza soldi causerebbe molti guai. Il denaro è la salvezza, l'unica tua redenzione. Insieme a Terror Rebel Sound ti dico fai attenzione. Borghese, borghese, borghese, borghese, borghese, borghese, borghese, borghese. Non senti mai il bisogno di parlare. Vivere convinto che sia giusto continuare. Credere che la tua condizione è sempre irreversibile. Ti senti bene nel tuo grande sommergibile. Borghese fai attenzione, borghese fai attenzione. Perché se non vali è spesso ma solo pretesa tu ti fai. Tu perché palese ma vai nelle chiese ti confesserai. Perdono c'ha avuto non ti cangia molto la capa e questa sai. Sì vedi caculli pezza in culo non c'è stato mai. Perché se non vali è spesso ma solo pretesa tu ti fai. Tu perché palese ma vai nelle chiese ti confesserai. Perdono c'ha avuto non ti cangia molto la capa e questa sai. Sì vedi caculli pezza in culo non c'è stato mai. Culli sordi catti tutto ti tagli bello ci senti brutto. Prendi il potere ad ogni costo e abbati sulla legazzi tua. Sentimo usa il potere per fare del bene. Io voglio invece più panzi vieni. Non sperare ciò che tieni. Fiatti senti rich man. Do you understand? You don't need to expand. Clear fire and I'm already a master cry. You learn the lesson that turn on rebel sound teach. And you sing and dance with us on this beat. Perché se non vali è spesso ma solo pretesa tu ti fai. Tu perché palese ma vai nelle chiese ti confesserai. Perdono c'ha avuto non ti cangia molto la capa e questa sai. Sì vedi caculli pezza in culo non c'è stato mai. Perché se non vali è spesso ma solo pretesa tu ti fai. Tu perché palese ma vai nelle chiese ti confesserai. Perdono c'ha avuto non ti cangia molto la capa e questa sai. Sì vedi caculli pezza in culo non c'è stato mai.